Cedo adesso la parola al professor Giuseppe Cacciatore dell'Università di Napoli, mentre prego il professor Antiseri di accomodarsi al tavolo degli oratori, che terrà appunto la sua relazione sul tema l'historismus diltai e la concezione kantiana della religione. Ringrazio il Presidente e, come nelle migliori tradizioni dei convegni, almeno italiani, e dei relatori dei convegni, almeno italiani, io ho scritto 40 pagine, non vi spaventate perché tenterò di riassumere in 5-10 minuti le prime 30 e vi leggerò soltanto le ultime 10, quindi il proponimento, almeno il proponimento, credo sia lodevole. È del tutto evidente, almeno a mio avviso, che un'analisi di questo tema della religione in diltai, innanzitutto in diltai, ma con tutte le ramificazioni e articolazioni che si possono individuare in quella costellazione storico-concettuale che è l'historismus, può essere affrontato almeno a partire da due livelli. Per quanto riguarda in modo specifico diltai, al quale, come appare subito chiaro, sostanzialmente limiterò la mia analisi, si può, ripeto, affrontare innanzitutto dal versante degli interessi storico-religiosi di diltai e quindi fare un riferimento che vi risparmio alle opere e alle ricerche giovanili del filosofo Renano dedicate alla storia e alla filosofia della religione. Poi è del tutto evidente che assume un rilievo importante tutta la mole dei lavori dedicati a Schleiermacher, ma anche le analisi e le ricostruzioni storiche di altri filosofi e teologi, penso innanzitutto a Strauss e a Bauer. L'altro versante è ovviamente anch'esso di carattere storiografico, che non tocca subito direttamente ricerche di storia della religione e di storia della teologia, ma è un profilo che possiamo definire di Geistesgeschichte. Mi riferisco alle ricerche sempre di carattere storiografico di diltai. Penso agli studi sull'antropologia filosofica dei secoli XV-XVII, penso agli studi sulla concezione della vita e della natura nell'umanesimo e nel Rinascimento, agli studi sul panteismo, sul sistema naturale delle scienze, infine sulle origini, agli studi sulle origini dell'ermeneutica. Come sapete, sia nello Schleiermacher sia poi negli altri studi di diltai, il problema è una cosa nota ovviamente, ma è bene ripeterla: il problema della fondazione filosofica dell'ermeneutica nasce sul terreno della critica biblica, almeno nella ricostruzione storica che ne fa diltai. Infine, il punto che poi credo sia interessante ai fini del nostro discorso, tutti gli studi e tutte le ricerche di diltai sui tratti essenziali di quella che, già a partire dalla proclusione di Basilea del 1867, il nostro diltai definiva la Deutsche Philosophische Bewegung tedesca, a partire dalle origini dell'Aufklärung fino al pieno maturarsi della cosiddetta Ethas kantiana. Questo è, diciamo, il primo possibile versante. di una ricostruzione del tema e del problema religione in Bilthey. L'altro è quello ovviamente che può richiamarsi ad una dimensione teoretico-filosofica. Il problema cioè di come si possa e si debba determinare il posto della religione nella peculiare visione bilthiana del mondo della vita e dello spirito. E qui ovviamente il problema prende le mosse, il suo avvio dalla fondazione, dal tentativo di fondazione filosofica delle Geisteswissenschaften. E sono convinto che in questo contesto non si possa fino in fondo intendere la concezione o la visione bilthiana della religione se nulla si inserisce, nulla si colloca in un contesto più generale, che è il contesto, ripeto, filosofico del significato che ha per Bilthey la costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito. Tanto è vero che chi voglia, almeno a mio avviso, capire fino in fondo che cosa sia dal punto di vista diciamo, della filosofia delle scienze dello spirito la religione in Bilthey, più che attestarsi su quelli che possono essere considerati i testi canonici per una tale ricostruzione, per esempio il saggio dell'ormai vecchio, credo l'ultimo anno e mezzo di vita di Bilthey, proprio intitolato Das Problem der Religion, debba invece andare a vederlo nel cosiddetto, dico cosiddetto perché il problema della ricostruzione del testo dell'Einleitung in die Geisteswissenschaften è un problema complesso e articolato, nel secondo tomo del primo volume dell'Einleitung, cioè laddove Bilthey ricostruisce il problema e la storia della metafisica nel mondo occidentale. L'altro punto, anche su questo versante ovviamente sto riassumendo, l'altro punto di confronto, quindi di visibilità di questo tema, di questo problema della religione in Bilthey è quello delle ricerche, delle analisi raccolte, raccolte poi dai suoi allievi, un volume dedicato alla Weltanschauungslehre. La Weltanschauung innanzitutto intesa, e in questo contesto anche la Weltanschauung religiosa, è intesa come, innanzitutto come bisogno dell'uomo di costruire ed elaborare una concezione unitaria ed esauriente del mondo e della vita. In ultimo, sono le pagine che adesso incomincerò a leggere, ho lasciato uno spazio, lascerò uno spazio maggiore per entrare più specificamente nel contesto di una possibile analisi delle eredità kantiane sul terreno della visione bilthiana della religione, ancora una volta muovendo dal doppio versante dal quale sono partito, cioè da un lato il versante dell'interesse storico, cioè l'interesse che Bilthey mostra verso il ruolo, il posto, il significato che assume Kant nella ricostruzione della storia culturale tedesca tra 1770 e i primi decenni del Novecento, e un altro livello è, il capire e analizzare il tasso di assimilazione dei punti cardine della filosofia trascendentale all'interno di quella che poi diventa la specifica concezione italiana della religione, cioè la religione come idea normativa e regolativa, e la religione anche come espressione, una delle espressioni di quella che è un incancellabile bisogno della coscienza metafisica dell'uomo. Venendo allora appunto a quest'ultima parte, diciamo, nella mia relazione, il problema storiografico critico dell'invenimento di eredità kantiane nella concezione della religione elaborata in alcuni momenti e in alcune figure dell'historismus, da Humboldt a Schleiermacher fino a Dilthey e a Troeltsch, credo possa essere affrontata a partire dalla stretta connessione che alcuni degli autori innanzi richiamati, in primo luogo ovviamente Dilthey, individuano tra la dimensione religiosa della vita umana e la sfera morale. D'altro canto, proprio analizzando le premesse politiche, culturali e sociali della religione nell'età tardi illuministica, Hermann Lübbe ha sostenuto che la kantiana filosofia della religione resterebbe poco comprensibile se non si ponesse in stretta relazione con gli ideali politici del riformismo illuminato e se non si cogliesse da questo punto di vista la sua principale caratteristica nelle implicazioni etico-politiche che essa svela. Sono noti i luoghi del testo kantiano sulla religione che consentono tale chiave di lettura. Nella prefazione alla prima edizione della religione, Kant, dopo aver ribadito con forza l'autonomia della morale, la sua assoluta indipendenza da ogni idea di essere superiore e dunque anche dalla religione, la sua autosufficienza conquistata grazie ai canoni della ragion pura pratica, non esclude che possa determinarsi un rapporto con la rappresentazione di un fine, posto non certo a fondamento, bensì come conseguenza, cito, necessaria delle massime adottate conformemente alle leggi. La stessa idea di sommo bene è da considerare sempre e soltanto come una conseguenza dei principi morali di cui però non può essere la base. Dunque il percorso che conduce alla religione si origina dalla morale, giacché lo stesso bisogno, bedürfnis, che dal punto di vista morale spinge l'uomo a cercare un fine ultimo, è da considerare solo come effetto compiuto del proprio dovere. Ancora più esplicitamente, nel paragrafo dedicato al concetto di comunità etica che poc'anzi richiamava il professore Ardigol, Kant insiste nel mettere in evidenza il nucleo morale della religione, precisando ovviamente i limiti e il senso di una comunità etica rispetto alla comunità giuridica, dove vige il principio del diritto esteriore e dunque della limitazione della libertà entro le condizioni di coesistenza con la libertà degli altri. Kant pensa all'idea di legislatore supremo come all'unico luogo in cui sia possibile vedere congiunto il momento del dovere con quello del comando. E qui la famosa citazione, credo a molti di voi notissima, da Kant: ma questo è il concetto di Dio in quanto signore morale del mondo. Una comunità etica è concepibile dunque solo come un popolo sottomesso a comandamenti divini, cioè come un popolo di Dio retto secondo leggi della virtù. La presenza di una evidente eredità kantiana nelle analisi dilthayane della religione va al di là, ovviamente, della mera puntualità dei possibili riscontri testuali. Questi ovviamente esistono e costituiscono anche preziosi elementi di ricostruzione storico-documentaria. La ricostruzione storico-documentaria, ad esempio, del testo kantiano sulla religione, sulle sue travagliate vicende con la censura prussiana, qui richiamo il celebre saggio di Dilthey, Der Streit Kants mit der Zensur über das Recht freier Religionsforschung, saggio che apparve nel 1945 1290 nell'Arcifio Licite del Filosofie, che è stato poi raccolto nel volume 4 delle Gesammelte Schriften. Il significato e la portata dell'influenza kantiana vanno ricondotti all'interno del più ampio contesto problematico dell'analisi critica e della ricostruzione storica della metafisica, come dicevo all'inizio della mia relazione, elaborate da Dilthey nella sua fondamentale Einleitung in die Geisteswissenschaften. Il passo iniziale, mosso sulla scia del rifiuto di ogni metafisica che pretenda di presentarsi come scienza causale esplicativa, si perfeziona nel convincimento dell'impossibilità di considerare la teologia come scienza. E tuttavia resta il problema della ricerca del possibile fondamento delle configurazioni, cito Dilthey, e delle forme della vita umana in generale e dunque anche della religione. Tale fondamento risiede, per Dilthey, nella storicità della vita umana, nel sentimento dell'uomo e nella totalità delle sue forze. Questa insistenza di Dilthey sull'inserimento del fenomeno religioso nell'ambito della più ampia connessione dell'esperienza della vita umana può spiegare anche la sua esplicita simpatia per quelle posizioni che vedono prevalere il senso dell'interiorità del rapporto personale con la divinità, piuttosto che quello della fondazione dogmatica o anche filosofico-gnoseologica. Così, ad esempio, nel bellissimo capitolo di Einleitung dedicato ad Agostino, Dilthey si mostra convinto del dipanarsi di un filo conduttore che unifica significativamente la metafisica della volontà, cito da Dilthey, disegno agostiniano, e la mistica medievale. Ed è questo filo, continua la citazione, che riuscì a salvare l'indipendenza della fede personale durante lo splendore e il declino della metafisica medievale, finché questa indipendenza non ottenne una fondazione scientifica in Kant e Schleiermacher. Fine della citazione. Proprio perché questo filo non si è la dissoluzione della metafisica medievale, provocata innanzitutto dall'insanabile e al contempo feconda contraddizione tra l'elemento astratto dogmatico della scienza metafisica e quello vitale e psicologico della coscienza metafisica, la coscienza personale, cito, non suscettibile da alcuna fondazione scientifica universalmente valida della nostra natura metafisica, fu e rimase il cuore della società europea. Il suo battito fu sentito dai mistici, dalla riforma, da quel forte puritanesimo che vive in Kant o in Fichte, non meno che in Milton o Carlyle, e che racchiude in sé una parte dell'avvenire. Fine della citazione. Il senso e la tipologia dell'approccio di Dilthey all'eredità kantiana per quanto riguarda la religione mi sembrano a questo punto del tutto evidenti. Kant viene considerato come punto nodale di problematizzazione di una visione intima, personale, metafisica della religione, nel senso, ripeto, della coscienza insopprimibile dell'Eterno e del suo mistero. Proprio a riprova di questa linea interpretativa, Dilthey inserisce Kant al culmine di un lungo processo che attraverso i secoli ed in significativa concomitanza con le fasi di sviluppo, declino e dissoluzione della metafisica, ha riconosciuto l'impossibilità di una prova cosmologica dell'esistenza di Dio. Sono delle pagine dell'Einleitung, del secondo tomo, del primo volume dell'Einleitung, dove Dilthey si sofferma su questo tema. Anche la prova ontologica, lungo un percorso che trova ancora per Dilthey al suo termine Kant, si mostra alla fine insostenibile, giacché un'esistenza di Dio che voglia essere dimostrata in piena autonomia da ogni presupposto cosmologico non può basarsi su, cito, un astratto concetto di Dio, quando anche ottenuto per analisi logica, bensì nel nesso vivo dell'idea di Dio con la totalità della vita psichica. Fine citazione. Dilthey sostiene qui, come anche in altri testi, la superiorità della prova morale dell'esistenza di Dio assunta dunque come solo bene e non come causa intelligente. Peraltro, conoscendo quale centrale funzione assuma nella visione dilthiana dell'esperienza della vita la connessione psicologica, diventa chiara l'immediata correlazione che Dilthey delinea tra prova psicologica e prova morale dell'esistenza di Dio, anticipando e percorrendo in un certo qual modo poi una delle linee interpretative che saranno per esempio anche di Tulsch nel saggio dedicato alla religione di Kant. Il punto evidente di contatto risiede nella centralità che per Dilthey assume l'analisi dell'esperienza interiore. Il convincimento dell'esistenza di un essere supremo si costruisce sulla base degli elementi psicologici che, ad esempio, cito, dal sentimento di caducità e imperfezioni fanno emergere l'esigenza della ricerca di una trascendente unità di misura. La libera moralità in cui si è capace di sacrificare il proprio io, scrive Dilthey, da parte di un essere che non può considerarsi creatore di se stesso, spinge quest'ultimo oltre tutti i concetti naturalistici e pone come loro condizione una volontà divina. La coscienza viva dei valori morali postula che essi non siano interpretati come un epifenomeno, un portato secondario della connessione naturale nella coscienza, ma come un'imponente realtà a cui sia diretta la strutturazione stessa del mondo e assicurata la vittoria nell'ordine cosmico. Fine della citazione. Se è giusto poter individuare le premesse storiche del cristianesimo nell'esito monoteistico a cui aveva condotto la riflessione cosmologica ed ontologica della filosofia classica, e se tali premesse, ragiona Dilthey, avevano consentito di conciliare l'idea di Dio con la coscienza classica della razionalità dell'universo, bisogna però alla fine riconoscere che, cito, la certezza di Dio, il quale per il cristianesimo è più di una semplice causa intelligente, per esso sta in prima linea nelle esperienze dell'animo e della volontà. Fine della citazione. Il problema del rapporto tra morale e religione, e più precisamente il convincimento che la religione potesse fondarsi sulla morale, era costantemente presente nell'ambiente filosofico-culturale verso il quale Dilthey aveva volto la sua attenzione di storico e studioso. Non a caso, del tutto evidente, riferimenti a Kant e alla sua opera sulla religione, come esempio di questa ricerca di nessi e distinzioni tra religione e morale, si trovano numerosi nel Leben Schleiermachers. Così Dilthey, nel capitolo dedicato ad illustrare la posizione di Schleiermacher nell'epoca dell'Aufklärung, parla significativamente di una complessiva visione del mondo etico-religioso e di una convinta adesione del filosofo teologo all'etica kantiana di una ragione pratica a priori, anche in polemica verso ogni forma di etica empiristica, ovviamente tenendo presente di tutte le distinzioni e di tutti i problemi che il rapporto Schleiermacher-Kant pone e di cui non dico niente, avendo affrontate da per suo stamattina il collega Cesa. Il punto di vista critico resta per molti anni a contrassegnare la formazione filosofica di Schleiermacher ed incide ovviamente anche sulla sua visione del cristianesimo come la più alta, cito da Dilthey, forza educativa del mondo morale. Anche se, come ben noto, la sua concezione della religiosità va ben oltre il criticismo e spinge verso una tendenza nella quale, cito, al posto di un'interazione tra volontà umana e divina, al posto di processi religiosi influenti sulla stessa volontà divina, subentra come unico processo religioso l'accettazione del divino nella singola volontà. Fine della citazione. Ma qui naturalmente interessa cogliere, più che la ricostruzione wittgensteiniana della vita e dell'opera di Schleiermacher, la peculiare interpretazione della filosofia kantiana della religione, che viene analizzata all'interno del capitolo sul sistema di Kant come oggetto della polemica di Schleiermacher, il quale, come noto, sottopone a critica la teoria kantiana dei postulati. L'accesso al mondo intellegibile della cosa in sé non può non passare che attraverso la porta della libertà, dice Diltey. E il mondo intellegibile mostra, cito, un ordinamento di fini che la natura abbraccia in sé e che trova il suo sbocco nell'evoluzione storica. Esso mostra una immortalità nel corso temporale. Il suo ordinamento è null'altro che l'avvicinamento all'ideale nell'infinità della serie temporale. Fine della citazione. Anche il problema di Dio va inserito in questo generale processo di idealità del tempo. È il presupposto della libertà che fonda l'esigenza propria di una fede morale che aspira all'immortalità e a un Dio personale, cito, fondante l'ordinamento morale del mondo. Anche a proposito delle fonti che stanno a base della cristologia schleiermacheriana, Diltey richiama la posizione kantiana e in particolare il saggio sulla religione. Secondo Diltey, anche questo era un passaggio che veniva richiamato stamattina da Cesa, il Cristo di Kant, come quello di Fichte e Schleiermacher, risente fortemente del Vangelo giovanneo. In Cristo è, cito, l'ideale della perfezione umana come fenomeno e riflesso dell'essenza morale della divinità. E il Cristo, che già Kant designava come Hubbild, e che è l'espressione dell'idea morale contenuta nella coscienza. Si tratta di un'interpretazione, osserva Diltey, che si differenzia da quella di Schelling e Hegel, giacché non dà luogo a, cito, identità metafisiche, bensì annessi dell'agire. Una radicalizzazione interpretativa dello scritto kantiano sulla religione, sempre nel senso del suo nesso stretto con i principi della filosofia morale, si può scorgere anche in alcuni passaggi del secondo volume del Leben Schleiermachers, lasciato inedito da Diltey ed ora stampato nell'edizione a cura del Redeker. In particolare in quella parte dedicata agli sviluppi della teoria ermeneutica prima di Schleiermacher. Lo scritto kantiano nella valutazione di Diltey si pone all'origine del prevalere dell'idealismo morale. Prevalere dell'idealismo morale su un mero aspetto esteriore del dogma e dell'articolo di fede, che intanto hanno valore in quanto manifestazione anche ed essenzialmente di un'idea etico-religiosa. L'altro aspetto centrale che Diltey sottolinea con forza è che la teologia biblica dell'idealismo, espressione di Diltey, si definisce a partire dalla contrapposizione tra male radicale e santità della legge morale. Nell'interpretazione di Diltey, che in queste pagine lascia a lungo parlare Kant attraverso continue citazioni proprio dal saggio sulla religione, il punto d'avvio risiede ancora una volta nel fatto che per Kant, cito, un sapere positivo del sovrasensibile può rinvenirsi nella ragione pratica e nei suoi postulati. Kant aveva affermato che la religione, considerata soggettivamente, è la conoscenza di tutti i nostri doveri come comandamenti divini. Proprio grazie a questa definizione, Kant chiarisce l'appartenenza dell'idea di Dio ad un sapere non certo assertorio, dal momento che riguarda la causa suprema è possibile soltanto, dice Diltey, un'ammissione problematica, un'ipotesi. Una tale fede, secondo Kant, ha bisogno soltanto dell'idea di Dio alla quale occorre inevitabilmente che giunga ogni opera morale. La Sacra Scrittura rappresenta, nel giudizio di Kant, che per questo è collocato da Diltey in un punto decisivo della storia dell'ermeneutica, la relazione morale nella forma di una storia. Per questo, commenta Diltey, cito, l'intero contenuto dogmatico della scrittura si spiega in parte come rappresentazione di principi morali in forme di poteri e persone esterne all'uomo, in parte come schematismo dell'analogia dell'unità dell'idea morale fondamentale. Fine citazione. Dunque, quel che viene ancora in primo piano è ancora una volta la religione morale, che soltanto secondo la forma può assumere caratteri di positività. Gli stessi concetti sostanzialmente vengono riproposti nel saggio del 90 su Bestreit, Kant, Mitters und Suhr. Il senso profondo, sostiene Diltei, col quale Kant, cito, ha determinato l'essenza della religione razionale, muovendo dal punto più profondo della sua filosofia trascendentale, ed ha reso comprensibile la genesi della fede ecclesiastica sulla base delle leggi della vita spirituale, rende possibile il tentativo di conciliazione, secondo Diltei, tra le esigenze della Vernunftreligion e quelle del Kirchenglaube. Il doppio versante sul quale, secondo Diltei, Kant si muove, e cioè da un lato la deduzione della religione morale dalla ragione autonoma, dall'altro il suo attingere al cristianesimo, analogamente a quanto dal diritto romano poteva derivare al teorico del diritto naturale, consente alla sua opera di elaborare, cito, una più profonda visione della struttura del cristianesimo, capace, osserva Diltei, di legarsi all'indietro con Pascal e di proiettarsi in avanti con Schleiermacher, il cui perno resta proprio, secondo Diltei, l'interpretazione morale della Bibbia e lo sforzo di gettare un ponte tale da consentire al teologo e al laico cristiano di passare, cito, dall'ambito della religione razionale a quello dell'uso della Bibbia e dell'utilizzazione dei dogmi. In definitiva, Diltei ribadisce il significato della visione kantiana della religione nel senso di un'interpretazione morale. Questa interpretazione si basa essenzialmente su due proposizioni centrali. In primo luogo, la dimostrazione della divinità della scrittura non deriva affatto dal racconto storico, bensì dal fatto che la religione è radicata nel cuore dell'uomo. In secondo luogo, cito, la fede storica della rivelazione rappresenta soltanto un mero veicolo per la pura fede religiosa. Fine della citazione. La stessa realizzazione del regno di Dio sulla terra consiste alla fine nel trasferimento della fede ecclesiastica particolare nella religione razionale. Citazione, da queste proposizioni deriva la possibilità per l'interpretazione morale di nucleare dal guscio della fede rivelata il solo, duraturo ed efficace nucleo. Fine della citazione. In conclusione, riprendendo l'originale movimento diltaiano della metafisica, che trapassa dall'impossibilità del suo proporsi come scienza, al riconoscimento di sé come elemento metafisico reale della vita proprio in quanto verità religioso-morale, Diltei mostra di volere andare al di là delle stesse conclusioni della filosofia kantiana. La dimensione metafisica entro cui viene a disporsi l'esigenza della vita umana, di richiamarsi ad un essere supremo, non può più, ad avviso di Diltei, accontentarsi dello schematismo trascendentale o dei postulati della ragion pura pratica. Le idee dell'anima e di Dio individuano il loro fondamento, dice Diltei, nell'esperienza interna, al di là e al di fuori di ogni necessità logica e di ogni inferenza teoretica. Cito, non è perché si sia costretti da una coerenza logica che assumiamo un contesto superiore in cui si è intrecciato il nostro vivere e il nostro morire. Piuttosto, continua Diltei, dal profondo dell'autoriflessione interna che trova già lì preesistente l'esperienza vissuta del darsi, della dedizione, della libera negazione della nostra egoità e prova così la nostra libertà dal nesso della natura, scaturisce la coscienza che tale volontà non può essere condizionata dall'ordine naturale, a leggi del quale la sua vita non corrisponde, ma solo da un qualcosa che lascia quest'ordine della natura dietro di sé. E tuttavia queste esperienze, chiudo con Diltei, sono così personali, così proprie e caratteristiche del volere, che l'ateo è ancora in grado di vivere questo elemento metafisico laddove l'idea di Dio di un credente può essere nudo guscio, vuoto, senza valore. Grazie. Ringraziamo il professor Cacciatore per la sua ricostruzione attenta, analitica, filologica della eredità kantiana nella concezione della religione di Diltei. eredità che ha definito evidente come è emerso, l'aggettivazione congrua come è emerso dalla sua relazione, in particolare dalla consonanza tra i due prestigiosi pensatori sul rapporto che c'è tra la morale e la religione.